Bene, buon pomeriggio a tutti e a tutte. 87.900, la modulazione di frequenza, questa è Radio Onda Rossa. Le 14 in punto. Giovedì 4 giugno del 2009, questa è Visionari, il consueto appuntamento con il cinema, come ogni giovedì dalle 14 alle 15. Per tutte le informazioni potete consultare tranquillamente il nostro sito, ossia ondarossa.info, dove troverete il link per riascoltare la puntata precedente e poi gli ospiti di questa settimana, le uscite del weekend cinematografico, i nostri suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e nel Lazio, anche il link per dare un'occhiata a interviste, recensioni, conferenze stampa e poi i film sul piccolo schermo, i film della settimana televisiva. Oggi numerosi gli ospiti e se ce la facciamo anche qualche visionario per parlare delle uscite in sala. Quindi diamo subito la parola ai nostri ospiti, rimanete in sintonia con noi e se volete potete ascoltarci ovunque, chiaramente grazie allo streaming sul sito della radio cliccando su In Diretta. Buon pomeriggio a Francesco Cordio, regista del documentario. Ci sei sulla questione dell'Alitalia, tutti giù per aria il titolo. Eccoci qui. Eccoci qua, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Come va? Va abbastanza bene, sono appena arrivato a Venezia. A dire la verità sono su un vaporetto che mi porta all'isola di San Servolo, dove stasera e domani sarà proiettato il film che sta riscuotendo un successo al di là di ogni aspettativa. Bene, quindi sei in tour per promuoverlo e accompagnarlo. Esattamente. Allora, raccontaci un po' la genesi e poi come si è sviluppato il progetto. Sì, Alessandro Tartaglia Pulcini, che è un ex assistente di volo, quando non era ancora ex ed era un assistente di volo, ha iniziato a filmare tutti i momenti delle manifestazioni, delle assemblee che si sono svolte da settembre fino ad aprile, durante la vertenza del passaggio da Alitalia a CAI e la formazione del nuovo contratto. Sì. E lui insieme al giornalista freelance che si chiama Matteo Messina hanno filmato un po' tutto quello che succedeva. Alla fine di marzo mi hanno convocato sottoponendomi questo materiale girato, che è stato girato anche con telecamere di fortuna, telefonini eccetera, per provare a ricucire il tutto e raccontare una storia, raccontare la storia di questa vertenza. Ritrovato tra le mani decine di ore di materiale. Sì, un'ottantina di ore di materiale. Sì, sì. Quindi per evitare poi di fare un blob, di mettere insieme immagini su immagini affastellate, ho cercato di aiutarmi con la fiction e così ho fatto interpretare a un attore che si chiama Fernando Cormick il ruolo di un assistente di volo che nell'arco di una giornata, con una voce off, ci racconta, ci accompagna dentro questo periodo di 6 mesi. Tu avevi già seguito la vicenda o per te è stato come avventurarti in qualcosa che non conoscevi? Beh, ho conosciuto tanti lati oscuri che durante quei mesi non mi erano stati chiari perché i telegiornali non mi avevano mai parlato. Diciamo, le grandi verità sono venute dopo, durante questa lavorazione. Senti, le cose più che ti hanno più colpito, che hai scoperto, quali sono in questa vicenda? Beh, intanto l'assoluta ignoranza da parte sia della nuova gestione, della nuova dirigenza, sia degli uomini del governo che trattavano un argomento a loro del tutto ignoto. Noi abbiamo delle interviste dentro il documentario che sono veramente imbarazzanti, sembra quasi che rispondano ad altre domande, non a quelle che gli vengono fatte. C'è un momento in cui gli si pone la questione che la dirigenza, scusatemi un attimo, ma è un momento molto difficile. Sì, sì. Scusate. immagino. Chiedo scusa. Oh, siamo in collegamento. Alla deputata del PDL gli si faceva presente che la nuova dirigenza era in mano a persone che per la maggior parte sono indagati o pregiudicati, e lei sosteneva con molta naturalezza che comunque quello è il meglio il meglio che offre il paese come dirigenza, come uomini d'azienda. Questa era una cosa abbastanza bizzarra, insomma. Nel documentario c'è anche il contributo di Beppe Grillo, che non compare nelle immagini, di Ascanio Celestini con un monologo all'inizio e alla fine delle riprese, Dario Fo e Marco Travaglio. L'intervento di Ascanio Celestini è quello che più, diciamo, caratterizza il film, che ha come sottotitolo L'aereo di carta, che è questo del racconto di Ascanio. E che, diciamo, ci ha fatto questo omaggio, ci ha regalato questo suo pezzo che abbiamo potuto inserire nel film. Il film invece ha dato nome alla canzone che è stata scritta apposta da Luca Bussoletti, che è un cantautore romano, e tra l'altro stasera farà un concerto a favore degli ex lavoratori al Contestaccio a Roma. Bene. Il concerto gratuito. Senti Francesco, si tratta di un'operazione chiaramente tutta autofinanziata. Sì, è un prodotto completamente finanziato dagli ex lavoratori, che si avvale anche delle risorse che entreranno grazie alle vendite del DVD. Che sarà adesso a disposizione dal 10 ufficialmente. Dal 10 giugno sarà ufficialmente in vendita, sia online, si possono già fare delle prenotazioni, sia in alcuni luoghi che molto presto metteremo sul sito, che è www.tuttigiuperaria.it. Scriveremo sulle pagine di questo sito tutti i negozi che ci stanno chiedendo in questi giorni di poter vendere il film. Io, visto la situazione un po' difficoltosa, vi passerei Alessandro Tartaglia Polcini che è il produttore, sì, come no, e l'ex assistente di volo, ideatore di questa cosa. Ok, a presto, un saluto a tutti, un abbraccio, ciao. Sì. Pronto? Pronto, buongiorno. Ben trovato, benvenuto a Radio Onda Rossa. Grazie, ben trovati voi agli radioascoltatori. Come stai? Bene, Venezia è molto bella. Senti, questo inizio così promettente credo ti faccia contento, no? Sì, sono molto contento perché il film ha preso corpo e la gente lo segue, insomma, sono tutti molto interessati a quanto accaduto, per ciò che riguarda la vertenza d'Italia. Sì. La qualcosa mi fa sperare che avrà quindi un seguito. Poi l'itinerario che vuole seguire questo film, sicuramente essere presentato in tutta Italia, poi desideriamo anche presentarlo ai maggiori festival internazionali, al di là del riconoscimento che può far piacere, ma soprattutto per mettere a conoscenza il paese di quello che noi pensiamo, anzi noi siamo certi, è accaduto, è stato fatto da una straordinaria compagnia di bandiera che oggi non esiste più, ricordiamolo. Sì. Senti, uno degli aspetti che emerge a più riprese nelle interviste, negli interventi del documentario, e l'impressione anche che dà è che un grosso peso lo si vuole dare alla dignità dei lavoratori, all'Italia. Sì, dignità che ad oggi è stato fatto di tutto, proprio nell'arco dello snodarsi di questa vertenza è stato fatto di tutto per togliere dignità ai lavoratori. Sì. Ma io non mi soffermerei neanche all'aspetto relativo al comparto aereo, ma guarderei anche più in là di quello che riguarda nello specifico il nostro lavoro. Chiaramente noi parliamo nel film di ciò che riguarda il comparto aereo, ma questa deriva riguarda un po' totalmente il mondo del lavoro, quindi diciamo che vuole essere, come dire, una sorta di avvertimento a quello che sta accadendo in altri comparti. Non a caso uno degli slogan, dei nostri slogan nel mentre della vertenza era: oggi tocca a noi, domani tocca a voi. Sì, quindi sì. Prestare la massima attenzione a quanto sta accadendo, ovvero polverizzare il contratto collettivo nazionale dei lavoratori e farne qualcos'altro. Quindi allerta, sempre in guardia, i lavoratori devono mantenere la loro massima professionalità, certo, con la giusta retribuzione ai lavoratori che va data e il riconoscimento della loro professionalità, che oggi viene sempre meno. Un altro aspetto del documentario è questo già l'abbiamo sottolineato abbastanza, questo della dignità, però un'altra cosa che mi ha colpito è che non fa sconti a nessuno, nel senso se la prende con il governo, se la prende con il maggiore partito di opposizione, con la cordata italiana, ma anche con gli stessi lavoratori, molti dei quali non hanno partecipato attivamente alle mobilitazioni che avete messo in campo. Sì, noi no, nel senso, questa è una storia. Francesco, attraverso il suo linguaggio cinematografico, ha voluto raccontare la storia in maniera chiara, cruda, senza, come dicevi tu, fare sconti a nessuno. Noi raccontiamo esattamente, facciamo una cronaca precisa di quanto è accaduto. Certo. Quindi non facciamo sconti alle sigle sindacali, confederali e di categoria. Non facciamo sconti ai lavoratori, che alcuni dei quali si sono un po' rassegnati a questa logica del ricatto. Non facciamo sconti neanche a noi che abbiamo realizzato questo documentario, che comunque anzi abbiamo anche tardato nel realizzarlo. Potevamo essere più solerti nel far presente, nel rivendicare quel che c'era da rivendicare. Detto questo, noi vogliamo semplicemente ricordare alla gente, chi vedrà questo film, che a detta anche degli addetti ai lavori dicono essere molto bello, molto toccante, molto forte, e quindi noi speriamo che la gente si interessi, perché poi è una cosa che riguarda anche la persona che in questo momento sta ascoltando la trasmissione, che quest'estate probabilmente per recarsi in vacanza prenderà l'aereo, ma lo prenderà in maniera diversa e l'avrà già preso in precedenza e si accorgerà di una differenza sostanziale, che è quella del recarsi, andare altrove, recarsi in un altro posto, andare altrove e muoversi per andare in vacanza. Quindi anche questo vuol dire, perché poi alla fine chi ne paga le conseguenze più di altri è proprio l'utente, il lavoratore sicuramente, che il lavoratore se va a lavorare scontento e sentendosi vessato e frustrato non può certamente ricoprire e manifestare la propria professionalità così come desidera farlo. Quindi bisogna prestare la massima attenzione, stare allerta, non dare spazio a personaggi di questa risma, che ricordo questi strani cavalieri bianchi, come piace a qualcuno nominare, metà di questi sono indagati e pregiudicati. Domando, sarà questo il patrimonio industriale del nostro paese? Ma allora, in chiusura, ricordiamo che Tutti giù per aria, il documentario di cui stiamo parlando, sarà a disposizione in DVD nei prossimi giorni, e ci ricordi anche il sito, il sito è www.tuttigiuperaria.it, all'interno del quale si troveranno da subito gratuitamente scaricabili i contenuti speciali, quindi tutta una serie di interviste fatte a Gianni Dragoni, a Francesco Piccioni, a Giorgio Cremaschi, che parleranno della vertenza. E si può acquistare il DVD già dal sito con PayPal e carta di credito, e si possono vedere tutta una serie di inserti che possono essere interessanti, la rassegna, tutto quello che è stato detto riguardo questo film. Un abbraccio in bocca al lupo. Grazie a voi e grazie per averci fatto intervenire con la vostra trasmissione. A buon presto, lavoro. Ciao, ciao, ciao. Grazie. Allora, si parlava del documentario Tutti giù per aria di Francesco Cordio. Andiamo avanti con i nostri ospiti. Benvenuto a Simone Amendola, regista del documentario Quando combattono gli elefanti. Ben trovato, caro. Buongiorno. Come va? Bene, rispetto al documentario molto bene. Allora, raccontaci un po', per chi ci ascolta, di cosa stiamo parlando? Allora, il documentario, diciamo, come storia centrale ha le lotte che fanno i macchinisti della ferrovia per la sicurezza. E quindi tutto quello che ruota attorno, cioè i licenziamenti che ci sono stati per chi ha denunciato sia delle carenze sia delle responsabilità. E il protagonista è Dante De Angelis, che è il macchinista che era stato licenziato nel 2006 per essersi rifiutato di guidare un treno con un vecchio sistema di sicurezza chiamato Uomo Morto. E poi era stato riassunto e è stato nuovamente licenziato ad agosto scorso per aver denunciato delle insicurezze sugli Eurostar. Oggi parliamo di due documentari su lotte dei lavoratori nel settore del trasporto. Prima abbiamo parlato di Tutti giù per aria, adesso di Quando combattono gli elefanti, che è stato tra l'altro in programmazione al Tech Festival e il 6 e il 7 giugno sarà a Pistoia, un altro festival. E no, praticamente a Pistoia sarà una cosa, diciamo, molto una bella, festa, diciamo. È la festa del macchinista, sì. Che è una cosa che avviene, diciamo, tutti gli anni. E quest'anno, ecco, ci sarà anche la proiezione del film in cui, sì, sono protagonisti, diciamo, tutti quelli che solitamente vanno lì a questa festa, dove viene preso un treno a vapore, ci sono una serie di cose che... Perché, come si vede anche nel film, forse è una delle poche categorie che ha una storia e che tende a, in qualche maniera, a valorizzarla, a mantenerla. E hanno una passione per il loro lavoro, ecco, quindi in qualche maniera anche le lotte per rivendicare un lavoro migliore, la sicurezza, non sono astratte. Vengono proprio da dentro, dalla passione per il lavoro che fanno. Ecco. Mm-hmm. Simone, tu come ti eri avvicinato a questa vertenza? Ma io praticamente la prima cosa che ho saputo era c'era stato quell'incidente avvenuto al vicino Roma su un binario in cui praticamente un operaio della manutenzione era stato schiacciato da un treno in arrivo, qualcosa che ricordava molto quello che era accaduto nel film di Ken Loach, Polmic e gli altri, che però raccontava una storia di 20 anni prima. Mm-hmm. E praticamente questo operaio era stato lasciato solo alla manutenzione del binario quando invece dovrebbero essere in due. E poi non si era capito bene quali erano le responsabilità perché nessuno aveva parlato. Mm-hmm. Quindi, informandomi su questa cosa, poi sono in realtà venuto, diciamo, a conoscenza con tutti gli altri lavoratori, appunto, tra cui Dante De Angelis, che è un personaggio sui generis, perché prima di conoscerli, personaggi del genere pensi che non esistono più. E quindi, ecco, poi sono entrato un po' in rapporto con loro, ho visto le storie che c'erano io, quelli che sono stati licenziati per aver parlato a Report, incidenti abbastanza pesanti, tipo quello di Crevalcore del 2005 in cui sono morte 17 persone e in cui tristemente ultimamente sono stati, diciamo, assolti tutti i dirigenti delle ferrovie e lasciata la responsabilità umana del macchinista. Mm-hmm. Simone, come l'hai strutturato il lavoro? Cioè, ci sono interviste ai lavoratori? Diciamo che la struttura è proprio di un film, sì. Cioè narrativa. Sì. E perché ci sono tante storie che si intrecciano, perché oltre a questa centrale, che è la spina dorsale del film, che appunto sono la realtà dei macchinisti e delle lotte in ferrovia, ci sono altre due storie parallele che si intersecano soltanto come elemento comune, il treno. E una è di una famiglia di colore che vive su una casa sulla ferrovia e la vogliono lasciare perché per evidenti problemi di rumori e contingenze, e un'altra è di un vecchio signore che ha un plastico di treni dentro casa che ha costruito in 30 anni. Quindi queste, diciamo, queste tre storie camminano parallelamente, ecco, avanzano proprio in una progressione narrativa da film. Mm-hmm. E in quest'ora e mezza, che è la durata del film, poi ci sono anche tre momenti in cui vengono raccontate delle cose attraverso delle interviste. Mm-hmm. Portate avanti, diciamo, da Dante De Angelis, appunto, che è il protagonista, e che ricostruendo l'incidente di Crevalcore poi ricostruisce le motivazioni del suo primo licenziamento e arriva, diciamo, alla fine, al secondo licenziamento. Simone, per quanto riguarda le proiezioni, oltre a queste due date di Pistoia, è in previsione un'altra? Allora, c'è una distribuzione che si è interessata al film. Sì. E quindi diciamo che c'è la possibilità reale che il film venga distribuito in sala tra, diciamo, dopo settembre, cioè facendo passare questo momento, e quindi, diciamo, ottobre dovrebbe esserci una distribuzione in alcune sale, non solo a Roma ma anche in altre parti. E poi legata anche, diciamo, a una rete, appunto, dei ferrovieri, così, in modo di sensibilizzare un po', ecco, anche l'opinione pubblica, la società. Per saperne di più, c'è un riferimento internet? Sì, c'è il sito, che è www.quandocombattonogli.it, e comunque, cercando, poi ci sono anche altre informazioni su altri siti. Allora, un abbraccio, in bocca al lupo e a risentirci presto. Crepi, e grazie a voi dello spazio. Ciao, ciao Simone, ciao. Ciao. Simone Amendola, regista del documentario Quando combattono gli elefanti, questa è Visionari su Radio Onda Rossa 87.900, la modulazione di frequenza ogni giovedì dalle 14 alle 15, tutte le informazioni sul sito www.ondarossa.info. Festival, parliamo dell'Altro Sguardo, il cinema dei diritti a Macerata, 5 e 6 giugno, con il direttore Maurizio Rinaldelli Uncinetti. Pronto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Come va? Bene, grazie. Allora, raccontaci un po' di cosa si tratta. Dunque, si tratta di una piccola rassegna che noi abbiamo chiamato Festival, tanto per dare, come dire, un'importanza a questa cosa, che in realtà viene a Macerata per la prima volta, quindi una prima edizione. Esatto, c'è stata una specie di anteprima l'anno scorso, perché in una rassegna di cinema estivo abbiamo lanciato alcuni film a tematica gay sotto lo stesso titolo, cioè L'Altro Sguardo, però diciamo che questo è il primo la prima rassegna compiuta, ecco. Sì. Dunque, è organizzata dall'Associazione Nuovo Cinema, che gestisce il Cinema Italia qui nel centro di Macerata da 3 anni, di cui io sono il presidente, in collaborazione con il Comune e la provincia di Macerata, mm-hmm. in particolare con gli assessorati alle pari opportunità e gli assessorati alla cultura dei due enti, e soprattutto con l'appoggio fondamentale e la collaborazione del Torino GLBT Film Festival, che da ormai alla 24esima edizione organizza a Torino ogni anno un vero e proprio festival molto importante, fra i più importanti al mondo su su questo tema, e quindi grazie all'amicizia e alla disponibilità del direttore del festival siamo riusciti a elaborare un programma di 2 giornate di film. Quindi c'è anche stato uno scambio di materiali, immagino. Più che uno scambio di materiali, un vero e proprio, come dire, pacchetto creato appositamente per Macerata. Bene. Diciamo che i film sono, soprattutto nella seconda giornata, provengono tutti quanti dall'ultima edizione del festival, quella che si è appena conclusa a fine aprile a Torino, e mentre invece sono tutti titoli inediti in Italia, originali in versione originale sottotitolata in italiano. E invece la prima giornata, che si apre con un altro evento secondo me molto importante, perché il film che poi chiuderà venerdì sarà presentato per una proiezione riservata alle scuole della provincia di Macerata, gratuita e, diciamo, con un particolare attenzione verso le scuole, verso l'adolescenza, ecco, perché il tema del film Dorian Blues è appunto un film che parla di un adolescente che viene in qualche modo discriminato dalla sua scuola. Senti, per in generale il criterio di scelta dei titoli su cosa si è basato? Come ti sei mosso? Dunque, personalmente io ho avuto modo di vedere qualcuno di questi film a Torino, dove sono stato sia questa edizione di quest'anno che l'anno precedente, e in particolare a me hanno colpito alcuni film che ho segnalato e che chiaramente, con tutte le disponibilità eventuali, perché sono film internazionali, quindi hanno percorsi e anche distribuzioni molto, molto particolari. Molto spesso questi film non vengono mai visti in Italia, proprio perché non trovano distribuzione qui nel nostro paese. Quindi non vengono neanche tradotti. Quindi, in particolare, un documentario che mi era piaciuto molto, che è quello che apre la giornata di sabato, che si chiama Out in India, che racconta di un viaggio molto particolare, una famiglia all'interno dell'India, ma un'India molto, come dire, molto povera, ma anche molto ricca di sentimenti, di sorprese e di capacità di reagire a temi molto importanti e molto, diciamo così, particolarmente in questo momento fondamentali, quali l'AIDS e l'omofobia. E Maurizio, il programma è online? Dunque, il programma non è esattamente online, nel senso che purtroppo noi non abbiamo un nostro sito di riferimento, però il programma è stato rilanciato innanzitutto dagli enti che ci supportano, quindi da provincia e comune di Macerata, quindi sul sito della provincia di Macerata e sul sito del comune di Macerata comunque il programma è presente, è segnalato. E poi è stato segnalato da vari altri siti, a partire da quello del Torino Film Festival fino al sito del Pensiero Stupendo, che è una discoteca molto conosciuta qui nelle Marche, che ci ha fatto questo, ci ha ospitato nel suo sito. Quindi diciamo che comunque, digitando L'altro sguardo, il cinema dei diritti, si trova un po' ovunque, dovrebbe apparire diverse pagine con il programma. Bene, Maurizio, allora in bocca al lupo e a presto. Vi ringrazio. ciao. Era Maurizio Rinaldelli, Uncinetti, direttore dell'Altro Sguardo, il cinema dei diritti a Macerata il 5 e 6 giugno. Buon pomeriggio a Giuseppe Cacace, pronto? Ciao Federico, buon pomeriggio a tutti voi. Tutto bene? Pronto? Tutto bene, dico? Sì, sì, sono in autobus, quindi ti sento altalenante, però tutto bene. Siamo okay. Ultimi dei preparativi dell'iniziativa di sabato e domenica. Oh, stiamo parlando del Cine Club The Tour, e l'iniziativa si chiama The Tour in Tour, il 6 e 7 giugno qui a Roma. Raccontaci un po'. Allora, l'idea è The Tour in Tour, chiaramente in tour, nel senso che è una programmazione itinerante. Sì. La cosa è legata alla chiusura del Cine Club. Dopo 12 anni, come più volte abbiamo annunciato, insomma, il The Tour è stato sfrattato, dobbiamo chiudere. Insomma, all'ultimo momento abbiamo detto, perché deprimerci? Festeggiamo 12 anni di attività, e abbiamo pensato di farlo in una maniera un po' particolare, coinvolgendo diversi amici e realtà culturali e sociali del quartiere, nonché tutti quelli che ci hanno accompagnato per 12 anni, e quindi è venuta fuori questa programmazione su 2 giorni. Ci va, diciamo, dalle 5 del pomeriggio fino alla notte inoltrata, in cui avremo veramente tantissime cose. Non solo cinema, quindi. Non solo, ci saranno, se vuoi ti dico qualcosa, ti do un quadro, proietteremo vari documentari, guarda sì. Caso alcuni strettamente legati alla chiusura dei locali culturali. Uno si chiama Via Fermi 72, che racconta appunto la chiusura di una videoteca di Borgata. Proietteremo Cinema Universale d'Essé, che anche questa è la storia di un cinema di Firenze, questa volta anche questo luogo di incontro, di aggregazione. Come no, entrambi sono stati i nostri ospiti, tra l'altro. Vedi, sì, che poi sono Via Fermi e insieme a Ettore Di Ciò, cioè sono gli altri due, cioè l'abbiamo fatto noi, insomma, sì, è sempre sì. Lo spunto viene sempre dal The Tour. Poi ci sarà una sonorizzazione, il solito Mike Cooper, diciamo amico storico del The Tour, e poi un concerto degli Honeybird The Birdies, un aperitivo con DJ Severin, metterà musica ad Oasi Urbana. Ecco, la cosa particolare è che abbiamo coinvolto 6 realtà, quindi The Tour si fa in 6, quindi oltre a The Tour ci saranno l'associazione Cotra, Donlus, Eima, Oasi Urbana, che è una bottega ecosolidale, la libreria Flexi e l'associazione dei ciclonauti, che farà una cosa molto carina. Hanno praticamente riparato, sistemato e messo a nuovo una bicicletta, sì. Che hanno, diciamo, chiamato e battezzato la Cinecletta e che verrà messa all'asta in favore del The Tour. Questa è la cosa fondamentale. Diciamo, noi chiediamo per partecipare una sottoscrizione, diciamo, di 6 euro minimo, e tutti questi soldi che raccoglieremo, speriamo che siano tanti, serviranno per ristrutturare la nuova sede, perché il culmine insomma, alla fine del set riveleremo dove andiamo a finire. Quindi ci sarà questo svelamento. Ci sarà questa informazione, insomma, per chi ci ha seguito per tanti anni, spero sia una buona notizia tutto qui. Bene, quindi stato d'animo è positivo, positivo alla fine. Positivo. Sì, insomma, sarà un po' difficile, perché come sempre i soldi per le associazioni come noi non esistono, non ci sono, insomma. Sì. Abbiamo avuto un po' di contatti con le istituzioni, sempre molto, tutti molto disponibili, non ultimo l'assessorato alla cultura, che è stato al Detour, ha conosciuto la nostra realtà, però è piuttosto complicato risolvere questo tipo di cose, soprattutto soldi relativi alla ristrutturazione di un locale. Mm-hmm. Ce la faremo da soli, insomma, almeno per ora, poi comunque creare un rapporto con le istituzioni non guasta. Senti, allora dacci riferimenti internet. Allora, il sito è cinedetour.it, ma penso che basterà digitare su Google The Tour in Tour per avere il programma. Comunque sul nostro sito c'è tutto il programma dettagliato con gli orari, molte iniziative si sovrappongono, quindi ci sarà anche la possibilità di scegliere. Praticamente pagando l'iscrizione, diciamo pagando la sottoscrizione, si riceverà un badge, una stilletta che permetterà di accedere ai vari locali e alle varie iniziative. Allora, ricordiamo in ultimo le date, 6 e 7 giugno qui a Roma, penso intorno al The Tour nel quartiere, sì, diciamo, Monti. Insomma. Rione Monti, sì. Per raggiungibile facilmente con la fermata metro Cavour, e lì insomma verrà data insomma una mappa con l'indicazione dei luoghi e il programma. Giuseppe, un saluto e alla prossima. Aspetto, ciao. Giuseppe Cacace del Cine Club The Tour. Thank you. E ben ritrovato ad Andrea Romeo, direttore della quinta edizione di Biografilm a Bologna dal 10 al 15 giugno. Noi ci sentiamo praticamente una volta l'anno. Ciao, ciao Andrea. Saluti a voi. Come va? Benone, anche il festival si fa ovviamente una volta l'anno, ormai sì. Per il quinto anno, e chiaramente, come dire, c'è un anno intero di lavoro che poi ci porta a queste giornate di giugno dedicate alle biografie e racconti di vita. Senti, a proposito di un anno di lavoro, quindi sono anche gli altri gli appuntamenti preparatori, immagino, no? Ma di fatto il festival inaugura già l'8, sì, con alcuni appuntamenti. Vedremo Glastonbury, lo vedremo con Julian Temple alle 22 di lunedì, aspettando Biografilm Festival, così come vedremo, per celebrare la Voci of Lucky Red Generation, il giorno martedì 9 vedremo, assieme a un ospite di Lucky Red, Antichrist di Lars von Trier in lingua originale. E poi alle 22:30, sempre martedì 9, vedremo un primo film a sorpresa. Io so ovviamente di che cosa si tratta, ed è un film straordinario, in anteprima rispetto poi a quello che sarà il programma del festival, che dal 10 al 15 giugno prossimi porterà una sessantina di personaggi straordinari e una cinquantina di film a incontrare il pubblico italiano alla Cineteca di Bologna. Oh, comunque non abbiamo detto la cosa fondamentale: qual è la caratteristica principale di questo festival che lo rende così appunto particolare? Biografilm da 5 anni ormai lavora sui racconti di vita, sì, sì, e sul genere biografico. Con film, intendiamoci, non è che tutti i film iniziano con la nascita e finiscono con la morte, sono fiction, sono documentari, certo, certo. Diciamo che lavora sul genere biografico, aprendo in generale a quelle opere che hanno al loro interno un racconto di vita o che raccontano un momento che ha cambiato la vita di tanti, come ad esempio la grande retrospettiva che in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e ovviamente con Lancia, che è sponsor del festival sin dalla prima edizione, poi in qualche modo diventa un argomento, un fil rouge per un intero anno di festival. E in questo caso il quarantennale ci ha fatto scegliere Woodstock, che non è stato solo un grande concerto, ma è stato sicuramente un momento chiave nella vita di milioni di giovani americani che oggi si ritrovano con noi per ricordare, celebrare, e in attesa che ci sia anche una nuova Summer of Love, che credo sia veramente urgente e necessaria anche quest'anno. Senti Andrea, immagino che il festival sia nato dalla semplice considerazione che esiste una vasta filmografia che riguarda le biografie, e tu che ci sei dentro, insomma, siamo alla quinta edizione, com'è la situazione a livello produttivo di questo, chiamiamolo, genere di film? C'è vivacità? Guarda, il festival nasceva all'indomani dell'11 settembre come idea, sì, in un momento di crisi molto forte, di crisi di felicità, diciamo, tra la necessità di una felicità privata, almeno per me, per quello che è stata la riflessione che ha portato me a pensare a questa manifestazione, tra la necessità di una felicità privata e una dimensione privata di felicità e una necessità anche di nuove relazioni e di nuovi progetti, diciamo, socialmente sostenibili per affrontare la quotidianità e affrontare il futuro. E in questo senso l'idea iniziale, sganciata dal genere e da ogni considerazione legata al successo del genere, mm-hmm, era che nelle biografie e nei racconti di vita si potessero trovare spunti per affrontare la vita stessa, appunto, perché il pubblico potesse, come noi che il festival lo facciamo, trovare nei grandi focus di biografie del passato, nei racconti cinematografici di biografie magari tanto lontane da noi, anche nello spazio e nel tempo, trovare degli spunti per vivere meglio, per decidere anche come vivere o come cambiare la propria vita. Mm-hmm. Da qui poi, presidiando il tema biografico, innanzitutto mi sono reso conto che era l'unica manifestazione a livello mondiale dedicata a un genere, quello biografico, e non solo a una disciplina, perché oltre al cinema c'è letteratura, certo, c'è musica, certo, ci sono spettacoli teatrali, quindi in qualche modo è molto multidisciplinare il biografilm, sì. Però che c'era un vuoto totale, non c'è un'altra manifestazione a livello mondiale che si occupi di biografico. Da lì poi il presidio di tutto quanto di biografico viene prodotto ogni anno, soprattutto opere di qualità, ci ha portato a vedere crescere moltissimo sia la produzione indipendente, che ormai ha raggiunto dei numeri incredibili. Ogni anno solo noi raccogliamo 300 film biografici prodotti nuovi a livello mondiale. Inoltre gli studios cinematografici hollywoodiani, i grandi autori, se ne parla proprio in questi mesi, hanno in cantiere tantissime grandi biografie, anche con film e produzioni molto, molto impegnative. C'è una nuova onda, probabilmente legata al fatto che nella biografia ci sono grandi storie e non possiamo continuare a raccontare soltanto storie di supereroi e di fumetti, per quanto io le ami moltissimo, e forse Shrek 4 e Batman 6 sì, non completano tutto quello che si può portare sullo schermo, e nelle biografie il cinema e la letteratura continuano a trovare inesauribili spunti e intuizioni per raccontare universi e mondi magari ancora inesplorati. Andrea, immagino, credo anzi, che accanto a questa ampia produzione il discorso si connetta anche alla scelta del pubblico, nel senso credo che Biografilm abbia una risposta di pubblico notevole. Guarda, l'attenzione è crescente, noi siamo molto, molto contenti dell'abbraccio del pubblico. L'anno scorso il pubblico è raddoppiato letteralmente, siamo a 20.000 spettatori, sono come dire, comunque numeri di un festival di nicchia, di un festival che ha una proposta, sì, culturale, sì, complessa, alta, articolata, e che sicuramente coinvolge poi i vari appassionati che magari nutrono una passione specifica per una delle biografie affrontate, o che vogliono magari per cinefilia o per passione del genere farsi stupire da storie che assolutamente non conoscono ma che incontrano casualmente poi al festival. Spero che in questi anni l'aumento e l'attenzione costante e crescente del pubblico mi conforta in questo, si sia creata una sorta di buona fiducia tra Biografilm e il suo pubblico, che accoglie molto spesso anche storie e autori assolutamente sconosciuti con grande calore. Bene. Andrea, in chiusura ci dai i luoghi telematici dove consultare il programma? Tutto è consultabile attraverso il sito biografilm.it, che dà orari, luoghi delle proiezioni, degli eventi, e assolutamente anche attraverso Facebook Biografilm Festival ha una pagina attivissima in cui segnala e con cui dialoga con il pubblico costantemente. Sono ovviamente gradite anche le visite al festival da fuori città. Per questa occasione è nato anche un accredito speciale, una car speciale Woodstock per il weekend, per chi vorrà raggiungere Bologna per partecipare con certezza e con sicurezza alle celebrazioni di Woodstock ed essere appunto tra quei 100 che guarderanno un po' dietro le quinte delle immense celebrazioni Woodstock, sono oltre 10 eventi, avendo poi la garanzia di essere appunto in sala sempre e con appunto la sicurezza di passare un buon weekend assieme ai protagonisti di Woodstock. Allora un saluto e in bocca al lupo. Vi aspettiamo, un abbraccio. Ciao Andrea, ciao. Andrea Romeo, direttore della quinta edizione di Biografilm Bologna, 10-15 giugno. Visionari, Radio Onda Rossa, 87.900, la modulazione di frequenza, giovedì 4 giugno del 2009. Andiamo avanti con gli ospiti ancora per parlare di festival. pomeriggio a Peppe Colella, responsabile della programmazione dell'undicesima edizione del Napoli Film Festival, dal 10 al 15 giugno. Ben trovato. Buongiorno a te Federico e ai tuoi ascoltatori. Tutto bene? Tutto bene. Procede, oggi abbiamo fatto anche un bel sopralluogo. Sta venendo tutto perfettamente. Allora, a proposito di sopralluoghi, dove si svolgerà il festival? Il castello, quest'anno il festival si svolge per la seconda edizione al Castel Sant'Elmo, sì. Un complesso medievale che domina la città di Napoli. E da là abbiamo attrezzato delle vecchie sale scavate nel tufo, perché il castello è proprio scavato in una montagna di tufo. Sì, sì. Le abbiamo attrezzate con le tecnologie moderne, sia video che proiezioni a 35 mm, e usufruiremo invece della sala dell'auditorium del castello, che è dotata di ben 700 posti, dove incontreremo gli ospiti d'onore del festival. Allora, quante le pellicole approssimativamente a disposizione, da dove provengono? Dici un po'. Allora, diciamo che noi abbiamo 4 rassegne in pellicola e 2-3 concorsi in videoproiezione. Sì. Le pellicole sono relativamente ai concorsi europeo, quindi un po' da tutta Europa, e di italiano di cinema indipendente. Anzi, qua vorrei correggermi, perché i nostri selezionatori hanno preso veramente cinema talmente indipendente che non ha ancora la pellicola e quindi il nostro premio offerto dalla Technicolor, sì, gli consentirà di avere ben 5 copie del film. Ho capito. E la giuria sarà composta da studenti universitari provenienti da tutte le università d'Italia di cinema, quindi diciamo il pubblico del futuro. Mm-mm. Avremo poi 2 rassegne classiche legate a Francesco Rosi, che sarà l'ospite d'onore del festival con una retrospettiva completa, sì, e Robert Bresson, dove proietteremo tutti i suoi film in versione originale sottotitolata. Sì. E non ultimo invece un autore moderno che è Roberto Andò. Queste come pellicole, poi sì, avremo un sacco di cortometraggi e documentari che rappresentano il meglio della produzione campana degli ultimi 2 anni. Mm-hmm. E ti devo dire che queste le ho selezionate io, è veramente un prodotto di qualità, sia come produzione che come autoproduzione. Mm-hmm. Che forse è la migliore edizione da questo punto di vista. Quindi una regione in fermento. Sì, sì, sì, sì. Ho notato anche che molti dei documentari hanno partecipato anche a festival internazionali come Venezia, Locarno. Addirittura uno degli autori mi ha chiesto di mettere la sua proiezione domenica, perché durante la settimana è a un festival a Shanghai, quindi detto tutto. Senti, non da meno abbiamo deciso, visto diciamo quasi un salto di qualità di questa produzione, di affiancare i documentari napoletani a quelli di un professionista. Ospite sarà Giovanni Minoli, che ha fatto una selezione dei documentari della storia Siamo Noi incentrati su Napoli. Mm-hmm. Senti, quindi sono previsti anche altri ospiti? Sì, altri ospiti avremo, come già detto, Rosi e Andò, a cui si affiancherà Raffaele La Capria per questa serata omaggio al cinema di Rosi, che si terrà il 10 in apertura del festival. Poi Laura Morante e Stefano Incerti, che proprio l'8 inizierà a girare a Napoli il suo nuovo film con Tony Servillo. Per l'ultimo film l'avevamo avuto ospite anche qui, quindi lo salutiamo se all'ascolto. Infatti sì, noi l'aspettiamo vivamente. Invece, come ultime chicche finali, domenica e lunedì avremo Isabella Rossellini, che porterà le sue ultime produzioni, Green Porno, questa serie simpatica di cortometraggi, non so se tu hai avuto modo di vederli. No, non conosco, no. No, è un'idea fantastica che lei si è inventata di come nella prima serie gli insetti e nella seconda i pesci fanno l'amore con lei che si traveste. Fastosissimo, perché sono corti poi di 3 minuti di facile lettura. Vabbè, oltre a questo poi parlerà della famiglia, del padre, della madre, quindi sarà tutta una serata un po' particolare. E chiuderemo in bellezza con Matt Dillon, atteso da numerose fan, visto le telefonate che stiamo ricevendo. Come contorno agli ospiti e tutto, avremo un'importante mostra del fotografo Avincola, realizzata sui set dei cinema prodotti da Dino De Laurentiis durante gli anni 60. Sono 100 scatti d'autore che arricchiranno le sale del castello. Senti, per concludere, il sito internet napolifilmfestival.com, là potranno trovare tutte le informazioni sul programma, gli ospiti, come raggiungerci, eventuali costi e numeri di telefono per contattarci. Peppe, ti ringrazio e alla prossima. Grazie a te, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Peppe Colella, responsabile della programmazione dell'undicesima edizione del Napoli Film Festival dal 10 al 15 giugno. Ora, se ce la facciamo, lo spazio per i nostri visionari. Nina col viva voce, ci sei? Sì, sono un po' stordita, a dire la verità, avrei dovuto portarmi uno strumento più efficace per parlare, però va bene, dai. Allora, intanto come va? Va abbastanza bene, ancora un po' faticata, devo dire. Comunque, si va avanti. Si va avanti. Allora, cosa abbiamo visto? Io ho visto Uomini che odiano le donne. Sì. Che è in sala. Che è in sala. Settimane, giusto? O da una? Quant'è? Forse dalla settimana scorsa, ma non sono sicuro. Comunque sia, l'ho trovato un film buono, interessantissimo. Non ho letto il libro a cui fa riferimento, della trilogia Millennium, e va bene, svedese. Anche il film è un film svedese, dura 2 ore e mezza, e questa cosa mi ricordava un po' Cannes, dove c'erano film lunghissimi, impossibili. Devo dire, tiene veramente la durata. È un thriller, ne hanno già parlato penso altri colleghi, quindi comunque non mi dilungherò troppo, ma la sorpresa è che comunque in una cinematografia svedese di genere, se vogliamo così parlare, con dei personaggi interessantissimi e degli attori che rendono interesse di questo di questi personaggi, penso soprattutto all'attrice che fa la ragazza, la hacker, no? Sì. Non so se tu hai visto il film. Sì, l'ho visto, l'ho visto. Ecco, problematica, che sembra quasi uscita comunque da un fumetto, lei, come si presenta, ma anche per le sue problematiche, insomma. Io lo consiglio questo film, perché è qualcosa un po' di diverso, ecco, rispetto a quello che non ci viene proposto normalmente. Poi, se non sbaglio, questo venerdì, domani, uscirà anche il film francese Cash, è possibile? Esatto. Ecco, che io ho visto ieri sera. E, che ah, però ma c'eri? Ero alla proiezione precedente. Ah, ecco. E non mi è piaciuto, però. L'ho trovato assolutamente inutile. Sì, non l'ho visto neanche tutto, penso. Neanche tutto, l'hai visto? No, ho preferito andare altrove. Ah, ecco. No, devo dire che, cioè, mi è sembrato un po' il tempo perso, anche addirittura con l'anteprima stampa. mi spiace perché anche lì parliamo di un cinema di genere, perché questo si tratta di action, commedia, thriller, no? Qualcosa così, con anche delle trovate di scena, di ripresa, split screen, tutte queste belle cose, però poi alla fine non lascia un po' il tempo che trova. Oppure l'accompagnamento musicale fastidiosissimo, che voleva ammiccare un po' la, che ne so, a quei telefilm degli anni '80, no? Sì. Però in realtà non ci riusciva, cioè. Eppure Valeria Golino è piuttosto brutta, secondo me. Vabbè. Vabbè, queste considerazioni. Senti, invece c'è Garage, che è un film irlandese che ha vinto Torino, e questa sera sarà all'Ostia Film Festival, la prima edizione di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, per cui per chi fosse interessato c'è questa occasione. Guarda, io Garage non so se ne avevo già parlato, ma se ne ho parlato, ne ho parlato 2 anni fa di Garage. Perché ha vinto, quindi forse la gente non si ricorda. Fino a fa, io tra l'altro sono stata una dei pochi, ma lo dico perché è stato un puro caso, a intervistare il regista irlandese, Lenny Abrahamson, il quale è veramente interessante come tipo, non si aspettava di vincere, e neanche io che vincesse, perché l'intervista l'ho fatta prima che vincesse. A me sì, mi è piaciuto, non so se tu anche l'hai visto. No, lo vedo stasera. Ah, ecco, e poi mi farai sapere, insomma. Io sono stato davvero curioso, una cinematografia irlandese che un po' deprimente anche, però oggi ti lasci andare così, eh? Sulle considerazioni sulla Golino, sulla cinematografia irlandese. Solo passare sul fatto che ogni tanto arrivano però film irlandesi qui, eh? Arriva poco. Poco, però ogni tanto arrivano. Anche perché ne fanno pochi. Eh sì. Purtroppo le crisi c'è un po' ovunque, cioè, quindi insomma. Però volevo dire che è una storia ambientata nelle periferie irlandesi, puoi immaginare, già l'Irlanda è la periferia del mondo, poi figurati la periferia della periferia, cioè, con dei personaggi assurdi. No, può piacere, a me piace questo tipo di cinema, può non piacere a tutti, insomma. Però è stato coraggioso, quindi è meritevole da vedersi, anche per una distribuzione piccola che sarà, però dai, il film è arrivato dopo 2 anni. Come dire, arrivano i nuovi film. Okay. Poi cosa c'è? Poi c'è L'amore nascosto, Visions e Terminator Salvation. Io ho perso tutte e tre. Terminator avrei voluto vederlo, non ho potuto. Sono molto curiosa di vedere Christian Bale nei panni che furono di Schwarzenegger. Comunque Terminator è interessante come figura, voglio vedere anche cosa ne faranno, però purtroppo non l'ho ancora visto, quindi dovremo aspettare. Va bene, allora Annina, ti abbraccio, ci vediamo in sala e poi ci risentiamo giovedì prossimo. Perfetto, va bene, ciao. E noi siamo in chiusura. Buon proseguimento, noi ci si sente giovedì prossimo sempre dalle 14 alle 15. Per tutte le informazioni il riferimento è il sito della radio, ossia www.ondarossa.info. Ciao.